the face of our common dangers. It's been unbelievable. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. It was the greatest loss of life for American troops in a single day in over 4 years. Let's start with the first incident in southern Afghanistan. Erano 4 anni che i giornalisti americani inviati in Medio Oriente non dovevano dare una notizia di questa gravità. È successo ieri. 14 uomini, 14 militari statunitensi sono morti, non in veri e propri scontri di guerra, in 2 incidenti aerei che hanno coinvolto 3 elicotteri, uno scontro tra 2 elicotteri americani e un altro elicottero che è caduto, in questo caso si ipotizza abbattuto dai talebani. E la notizia, per la sua portata naturalmente, è risultata scioccante anche a un'audience abituata ad avvisi, a lutti di questo genere, e qualcuno tra gli editorialisti americani ha cominciato a ipotizzare che potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso, o forse non è questa, ma potrebbe presto arrivare una goccia che fa traboccare il vaso, perché l'atmosfera attorno alla spedizione sta cambiando, e sta cambiando profondamente. Ci sono le parole di Barack Obama pronunciate ieri, allorché è intervenuto per l'appunto in una base militare a Jacksonville in Florida. Ha detto: non c'è parola che possa diminuire il dolore che comporta la perdita dei nostri soldati, che hanno dato la loro vita per proteggere le nostre, erano disposti a rischiare la vita per impedire che quel paese, l'Afghanistan, ritorni un rifugio per Al-Qaeda e per i suoi alleati estremisti, un ultimo atto di devozione per proteggere le nostre vite. Tra tutti i privilegi che comporta l'essere presidente, non ce n'è uno più grande di essere il vostro comandante in capo. Ma c'è chi scrive anche con testimonianze di prima mano, ovvero pescate dal fronte, nella voce di alcuni militari, e più tardi ne parleremo ancora. C'è chi scrive che forse potrebbe non valerne la pena. Noi abbiamo colto l'occasione per chiamare in causa un amico del nostro programma, ovvero Andrea Margelletti, il presidente del Centro Studi Internazionali, per chiedergli un parere al riguardo, e poi anche un parere su quanto si viene a sapere dalla televisione nazionale iraniana riguardo a una possibilità di accordo sul nucleare. Ma prima di tutto parliamo di questo tema. Buon pomeriggio, Andrea. Buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. Grazie a te. Rapidamente, c'è veramente un cambio di atmosfera? Al di là di un presidente che non si decide riguardo a questo incremento del numero di truppe, ci sono ormai un numero crescente di media che pongono insistentemente questa domanda: ma vale la pena tutte queste vite perdute e quant'altro? Poi naturalmente proviamo a discutere un momento sul tema. La realtà dei fatti è che in Afghanistan c'è una guerra all'antica. Il conflitto del 99 in Serbia ci aveva abituato, o almeno aveva abituato molti, al concetto di guerra a costo zero. L'alta tecnologia permette di diminuire i rischi, i bassi rischi collaterali, come con grande ipocrisia si chiamano i civili uccisi. Questa è una guerra all'antica, fatta di soldati, di fanti che combattono sulle montagne e combattono contro un nemico deciso. Questo porta inevitabilmente a morti, molte morti, e questo naturalmente è politicamente difficilmente sostenibile per le morbide democrazie occidentali. Ma esiste una presentabilità a questo punto di fare quello che Kerry, che è un personaggio importante su questo scenario in questo momento, continua a raccomandare, ovvero trovare una via d'uscita per andarsene? È presentabile un'opzione del genere da parte americana? Credo di no. No. La realtà dei fatti è che se ne vogliono andare tutti dall'Afghanistan, ma questo sarebbe il fallimento politico più grande non solo della NATO, ma del mondo visto attraverso il prisma americano. Secondo te anche su base interna americana domestica sarebbe considerata seriamente una sconfitta? Credo di sì. Il vero problema non è l'aumento dei soldati, che Obama dice li manderò o non li manderò. Mm-hmm. Il problema è che gli americani stanno rivisitando la loro strategia in Afghanistan e la sensazione che abbiano difficoltà a scegliere quali pesci pigliare. Certo. Mi fai un commento anche a questa notizia emersa qualche ora fa riguardo alla, come si può dire, parziale, no, apparente disponibilità a raggiungere un accordo da parte dell'Iran dopo l'offerta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, no, lo spostamento all'estero di buona parte, l'80% dei 1500 kg di uranio arricchito in Russia, dove sarebbe lavorato, insomma, l'entrare in un circuito, non dico virtuoso, ma sicuramente più controllabile. Siamo sulla strada giusta, secondo te, Andrea? L'idea è che gli iraniani vogliono trattare, ma da sempre lo vogliono fare. È parte della trattativa che è connaturata a quella parte del mondo, come chi ha avuto anche come turista una minima frequentazione dei souk ben sa. Naturalmente però bisogna anche comprendere il loro punto di vista, rimanere fermi sulle nostre posizioni, ma non avere preconcetti di base. Ecco, noi forse ogni tanto stiamo un po' troppo con i paraocchi. Quindi per concludere, l'opzione diplomatica è ampiamente praticabile in questo caso? Credo di sì, è un governo, quello di Teheran, non molto forte. E avere contro la comunità internazionale certamente non l'aiuterebbe nella gestione delle cose interne. Grazie, grazie ad Andrea Margelletti. Primo piano. In recent weeks, politics has reduced an extraordinarily complex country, an extraordinarily complex region. E ci vogliamo tornare sopra, come dicevamo poco fa in apertura, perché abbiamo la netta impressione che si stia delineando mentre si avvicina, no? Poi i giornali americani lo danno a vedere con grandi articoli, anche i giornali italiani cominciano a celebrare questo primo anniversario della elezione di Barack Obama, con tutto quello che comporta in positivo e in negativo. Ci ragioneremo anche nei prossimi giorni, manca una settimana. Un anno fa si percorreva l'ultima settimana che avrebbe portato forse la più incredibile elezione presidenziale in America degli ultimi molti decenni, quella di Barack Obama. Poi sarebbero seguiti una serie di avvenimenti su cui naturalmente dare un giudizio è prematuro, ma ragionare è legittimo, e una delle questioni al centro dell'attenzione soprattutto ai media americani in questi giorni è proprio l'Afghanistan. È proprio la permanenza in Afghanistan, è proprio l'atteggiamento da continuare o da cominciare ad avere o da rinnovare nei confronti della questione. La voce che avete sentita è quella di John Kerry, il presidente della Commissione Affari Esteri del Senato americano, che ieri ha dichiarato che per gli Stati Uniti andare in Afghanistan non è stato un errore, ma rimanerci potrebbe esserlo. Parole dette tanto più in un momento come il presente, in cui si deve decidere se come dire, raddoppiare la scommessa, suonano sicuramente preoccupanti, e ci sono molti articoli al riguardo, li abbiamo letti stamattina sulla stampa americana e anche britannica. Su Times, per esempio, il grande quotidiano di Londra, c'è una grande copertura sul tema che porta il titolo "Il morale sprofonda per i Marines americani in Afghanistan". C'è ad esempio la dichiarazione di un sergente che dice: "Io non mi sento coinvolto in questa guerra, sicuramente non sono per niente sicuro che valga la pena spendere tutte queste vite umane". Sul Washington Times c'è un articolo intitolato "Soldati americani sperano che i sacrifici in Afghanistan non siano invani". L'articolo ha esattamente lo stesso tenore. Anche qui un altro sergente, si chiama Cobell, dice: "Per quale diavolo di motivo tanti miei ragazzi stanno dando la loro vita in questa missione?". È il dibattito, non a caso, sul quale anche Barack Obama è ben attento ad assumere una posizione decisa. Quel che è certo è che entro le prossime settimane questa posizione andrà delineata. She's the one. there somebody calling me out? She's the one. We were young, we were wrong, we were fine all along. If there's somebody calling me on, she's the one. Buongiorno America. Scialla. Ci sono dei momenti in cui il mondo si diverte. Tutti ridono, scherzano, non hanno pensieri, fanno casino. E invece tu ti senti sola. Sola da morire. E pensi che nessuno ti capisce, che la vita non ha senso. Ma può bastare un attimo e tutto cambia. E allora ti senti di nuovo 3 metri sopra il cielo. Allora, esce il 30 ottobre Amore 14, il nuovo titolo di Federico Moccia, già in libreria, ora sugli schermi, firmato anche come regista, in questo caso dall'autore che è diventato a tutti gli effetti il cronista italiano del passaggio d'età, del leggendario passaggio d'età dall'adolescenza alla giovinezza, all'età matura. E in questo caso sono chiamati in causa i teenager, la storia di una prima volta, la storia di un amore visto un po' magari dall'alto, no? Dalla proiezione di un adulto, ma poi vissuto tra le righe, negli interstizi dei rapporti tra giovanissimi. E Federico, nelle sue interviste che sta rilasciando nel momento del lancio del film, che appunto arriva il 30 ottobre nelle sale, ha citato un nome che così ha svegliato un po' le antenne di Buongiorno America, ovvero quello di Salinger, scrittore di formazione per antonomasia e autore naturalmente del Giovane Holden, il romanzo su cui tutto l'Occidente, diciamo, nell'ultimo mezzo secolo sicuramente ha cominciato a coltivare i propri sogni letterari e sicuramente le proprie fantasie romantiche. Abbiamo in linea, lo ringraziamo per questo, Federico Moccia, per chiedergli qualcosa in più sull'argomento. Buon pomeriggio, Federico. Buon pomeriggio a voi. Io sono molto felice nell'ipotesi di questo accostamento, che però per quanto mi riguarda è semplicemente una citazione, e certo, l'atmosfera che ha lasciato quello splendido romanzo di questo giovane Caulfield, il famoso The Catcher in the Rye, certo, mi colpì moltissimo, proprio dal titolo a tutta la storia di Salinger, rispetto poi alla bellissima narrazione delle emozioni proprio di quel periodo e di questo giovane bugiardo in tutto quello che accadeva, ma anche nel romanticismo che ci sono in quelle pagine. Ecco, Federico, perché tu sei passato quindi attraverso la lettura, come dire, emotiva del giovane Holden, ne hai fatto quell'esperienza che un po' segna un po' per sempre, vero? Assolutamente. Io, a parte le domande divertenti di dove finivano nel periodo invernale i pesci nel laghetto, certo, quando si ghiacciava l'acqua, mi ricordo con ancora estrema tenerezza il racconto, l'attenzione a quelle mani al cinema che si stringevano, e quanto è vero un gesto così semplice, così pulito, nel scambiarsi le prime effusioni rispetto alla bellezza di un bacio e tutto ciò che ne consegue. Qui c'è qualcosa del metodo Salinger che in un certo senso hai voluto riusare o citare in questo tuo lavoro, prima letterario, poi cinematografico? Assolutamente, nel senso che mi è piaciuto moltissimo, è una chiave completamente diversa e moderna, ma la mia giovane protagonista è Carolina Bolla, uh-huh, e quindi attraverso gli occhi e le emozioni, le prime emozioni, lo scoprire il proprio corpo, la paura di scoprire il corpo dell'altro sesso, tutto questo è stato un cammino anche narrativo ben più profondo, perché si ha più tempo, si hanno più pagine a disposizione per raccontare quelle emozioni, rispetto poi a questo film che però prevede anche la scuola, i nonni, il rapporto con le mamma e papà, quindi le bugie, come il giovane Caulfield quando si inventava tutto rispetto a quello che accadeva in classe. Anche Carolina sicuramente non è da meno. Ecco, ultima cosa, Federico, ma non è un po' un rischio, ovvero sei convinto, pensi, ipotizzi che i ragazzini, che in buona parte saranno il pubblico più entusiasta e più fedele anche di questo tuo nuovo film, lo sappiano chi è Salinger, chi è Holden? Non è che andiamo, come dire, a citare ormai dei santi ma di un'altra generazione? Beh, no, nel senso, a parte che a me fa piacere se per caso questa attenzione li potesse riportare a leggere magari un romanzo che non hanno avuto modo di conoscere, poi completamente una chiave moderna e nuova che va a toccare tutti quelli che sono per esempio i telefonini, i computer, il continuo chattare di questa nuova gioventù non bruciata ma innamorata, che ho voluto assolutamente raccontare. Va bene, allora Amore 14, Federico Moccia, grazie, grazie per essere stato. Grazie, grazie a voi. Take me home, New York, New York. Take me home. This is it, y'all. To a place. Madison Square. Where I was born. You should be glad you're here. New York City. Number one. East New York now. That's right, y'all. Take me home. Nick City Dancers, let's go. Just take me home. One, two. Ma insomma, che New York City sia numero uno io ne dubito altamente, però come facciamo ormai ogni anno, buona tradizione, annunciamo che ricominciano i giochi, ricomincia il campionato professionistico NBA di pallacanestro, e stanotte c'è l'opening game, la partita d'apertura, anzi ce ne sono tre, speriamo che le televisioni via satellite trasmettano quella tra Boston e Cleveland, che è sicuramente il piatto più prelibato. Domani cominciano anche le World Series di baseball, per chi è appassionato di sport americano. Sono giorni interessantissimi. NBA, un grande baraccone globale, ormai lo si segue in Italia come se fosse roba nostra. Tante le novità, una dell'ultimissima ora, e ve la dico per gli appassionati: non ci sarà tra l'altro il derby di Los Angeles, Clippers e Lakers, è una delle partite di apertura, ma non ci sarà il giocatore più atteso, ovvero la scelta numero uno del draft, i nuovi arrivati al campionato. Si chiama Blake Griffin, un giocatore assolutamente eccitante, però si è spaccato un ginocchio un paio di giorni fa, mancherà per svariate settimane al suo debutto nel campionato. Ci sarà però Shaquille O'Neal con Cleveland, Ron Artest con i Lakers, Allen Iverson con Memphis, una squadra tutta da seguire. Ci saranno gli italiani, l'armata italiana, Bargnani Bellinelli a Toronto, il debutto vero di Gallinari a New York, e poi vogliamo dare anche il nostro inutile pronostico come sempre, e noi diciamo occhio agli Spurs, occhio a San Antonio, una squadra di cui non parla nessuno, e invece sarebbe meglio farlo. Tanto sono 7 mesi, 8 mesi a voglia a discutere di NBA, mi auguro spesso e volentieri anche qua a Buongiorno America. Io sono Stefano Bistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, Valerio Rocchetti a Milano e Filippo Auri a Roma, e Filippo Auregi a Milano per la parte tecnica. La mail buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, la diretta dopo l'1:30 qui su Radio 24, dove vi auguriamo di stare tutti benissimo.